tutto è sempre più difficile. Così buio che non sembra la realtà. Avevo ogni cosa e l'ho perduta. Sono sola in questa oscurità. È da una vita che inseguo te, ma non posso sapere dove vai. E soffro fino al punto che il peso mi schiaccia. Ma una tenue voce non si ferma mai. Non sai forse come fare, ma non puoi mollare. Fai ciò che è giusto e vai. Vuoi sapere se migliorerà? Non lo so, non si può forse più. E intanto mi domando che mai farò. Il sole che guidava me sei tu. E per chi mai potrò rialzarmi più se non ti avrò? Fai ciò che è giusto, sia quello che sto per fare. Fai un passo e un altro e tu da lì poi vai. È la cosa giusta e la più facile in realtà. Guardare avanti non mi va, ora è troppo, è una sola la possibilità. Ascolta, volta per volta, fai ciò che è giusto, poi vai.